Lì si prostituisce Efraim, si macchia Israele. Anche per te, Giuda, è destinata una messe quando io ristabilirò il mio popolo. Quando io voglio risanare Israele, si rivela la colpa di Efraim e la malvagità di Samaria. Veramente si pratica la menzogna. Il ladro penetra in casa, si scatena il brigantaggio di fuori. Essi non pensano dentro di loro che io ricordo la loro malvagità, ma le loro azioni li circondano. Esse stanno là, davanti a me. Nella loro malvagità rallegrano il re, nella loro perfidia i capi. Sono tutti affannati, sono riscaldati come un forno che il fornaio cessa di attizzare quando si impasta e finché non lievita. Snervano il loro re, i principi con i fumi del vino, egli dà la sua mano agli scellerati. Si appressano i congiurati, il loro cuore è come un forno. Tutta la notte è quieto il loro furore, al mattino si accende come una fiamma ardente. Sono tutti riscaldati come un forno, divorano i loro giudici. Tutti i loro re sono caduti, nessuno di loro mi ha invocato. Efraim si mescola con le genti, Efraim è come una torta non rivoltata. Gli stranieri divorano le sue forze, ma lui non se ne accorge. Capelli bianchi gli sono spuntati, ma lui non se ne accorge. L'orgoglio di Israele testimonia contro di lui. Essi non ritornano al Signore loro Dio e non lo ricercano, nonostante tutto ciò. Efraim è come una colomba semplice, senza intelligenza. Chiamano l'Egitto, vanno in Assiria. Dovunque vanno, io tendo su di loro il mio laccio. Come l'uccello del cielo li farò cadere. Li prenderò appena udito il loro stormire. Guai a loro che si sono allontanati da me. Disastro su loro che si sono a me ribellati. Io vorrei riscattarli, ma essi dicono menzogne contro di me. Non gridano a me dal loro cuore quando si lamentano sui loro giacigli. Si lacerano per il frumento e il vino nuovo, ma poi si rivoltano contro di me. Io ho reso forti le loro braccia, ma essi ordiscono trame contro di me. Si voltano a Baal, sono come un arco fallace. Cadranno di spada i loro capi per l'insolenza della loro lingua. Si riderà di loro nella terra d'Egitto. Alla tua bocca la tromba, come una sentinella, sopra la casa del Signore, perché han trasgredito la mia alleanza e alla mia legge si son ribellati. Essi gridino pure, Dio d'Israele, noi ti conosciamo. Israele ha rigettato il bene, il nemico lo inseguirà. Han creato dei re, ma senza il mio consenso. Han creato dei capi, ma a mia insaputa. Han fabbricato con l'argento e con l'oro i loro idoli, per loro rovina. Sì, è ributtante il tuo vitello, Samaria. La mia ira si infiamma contro di lui, fino a quando rimarranno immondi i figli di Israele. Esso è opera di un artigiano, non è un dio. Sì, in fiamme andrà il vitello di Samaria. Seminano vento, mietono tempesta. Il frumento è senza spiga, non farà farina. E se la farà, la divoreranno gli stranieri. Israele è divorato. Oramai sono tra le nazioni come un oggetto che non piace più, perché essi son saliti verso Assur, asino solitario e ritirato. Efraim si è comprato degli amanti. Anche se li comprano tra le nazioni, ecco io li disperderò, ed essi cesseranno ben presto di consacrare re e capi. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari gli sono serviti per peccare. Scriva io pure una quantità di leggi, son ritenute per quelle d'uno straniero. Amano i sacrifici, li offrono pure, la loro carne, la mangino pure. Il Signore non li gradisce. Ormai sta per ricordarsi delle loro colpe e per punire i loro peccati. Essi ritorneranno in Egitto. Israele ha dimenticato il suo creatore e ha costruito i suoi palazzi. Giuda ha moltiplicato le sue fortezze. Io manderò il fuoco sulle sue città, che ne distruggerà i palazzi. Non ti rallegrare, Israele,